Economia. Di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di Monte dei Paschi in attesa che questa sera o domani mattina arrivi il decreto del governo per appunto dopo l'approvazione del Parlamento sul fondo da 20 miliardi che servirà in primo luogo per il Monte dei Paschi, ma non solo. Mediaset oggi novità minori, ci sono i vertici di Mediaset in Consob, domani toccherà quelli di Vivendi, però il titolo perde il 12%. La spiegazione che sta circolando in maniera più consistente è che sostanzialmente raggiunti i livelli che potevano raggiungere, quindi sotto il 30, appena sotto il 30% Bolloré, e non potendo aumentare la sua quota Fininvest, perché come sappiamo ha già usato il 5% e deve aspettare, può aumentare del 5% all'anno, quindi se aumentasse adesso dovrebbe lanciare l'OPA. Dicevo, la spiegazione più logica che utilizzano gli analisti è quella dei realizzi, perché insomma la battaglia per ora si è fermata e vedremo quali saranno, abbastanza certo che vi saranno nuovi sviluppi, però si attendono notizie appunto degli incontri di oggi e di domani in Consob, Fininvest e Vivendi. Per quello che riguarda invece il Monte dei Paschi, il titolo è negativo del 3,60% a 15,70 euro, ma oggi ci occuperemo soprattutto di cercare di capire che cosa possa contenere concretamente il decreto, nella fattispecie soprattutto per quello che riguarda il ristoro agli obbligazionisti subordinati, anche se c'è chi dice attenzione, nemmeno gli obbligazionisti junior potranno essere completamente salvati, e c'è chi si attende che comunque un prezzo verrà pagato e non lieve, ma ne parleremo fra pochissimo. Negativa anche Fiat Chrysler, meno 3%, Telecom Italia meno 2,20%, Terna meno 1,70%, Buzzi Unicem pure, Ferrari perde l'1,5%, ST Microelectronics l'1,5% anch'esso di calo. Chi va bene oggi? Saipem più 2,60%, Pop Milano e Banco Popolare entrambi in rialzo del 2,5%, Unipol più 2,40%, Biper Banca più 2%, Unicredit più 1%, Tenaris più 0,80%, quindi bene le banche, anche se non con rialzi fortissimi, che continuano a beneficiare dell'effetto, chiamiamolo così, scudo sul Monte dei Paschi. Meno 0,60% complessivamente l'indice Milano, meno 0,20% Parigi, meno 0,20% anche Francoforte, più 0,20% Londra, Dow Jones meno 0,17%. Parleremo anche di Alitalia, perché sembra essere arrivato un accordo, anzi un'intesa è arrivata sul finanziamento della seconda fase del piano industriale, siglata all'alba da quello che si è capito, che consentirà di sbloccare 180 milioni di euro di crediti con in pole position Intesa San Paolo e Unicredit, dopo che erano circolate voci di qualunque genere, addirittura che volesse sfilarsi Etihad e avesse scelto diciamo l'ipotesi Lufthansa. Comunque dovrebbe essere arrivato l'accordo con le banche. Parleremo anche, come promesso, della vicenda della Banca Etruria. I 22 avvisi di chiusura di indagine notificati venerdì scorso riportano alla ribalta anche una vicenda allucinante, mi riferisco a quella dello yacht, 136 milioni di euro di finanziamenti erogati dall'allora Popolare di Etruria al cantiere Privilege Yard, avrebbe dovuto costruire 9 mega yacht, non se n'è mai vista, diciamo, il varo non è mai arrivato di nessuno di essi, e poi con uno strano giro di denaro che coinvolge anche il cardinale Tarcisio Bertone. Poi commenteremo la condanna all'ex governatore di Lombardia e senatore di NCD Roberto Formigoni, 6 anni di carcere sul caso del processo Maugeri e San Raffaele. Formigoni era imputato per associazione per delinquere e corruzione con altre 9 persone. Tra l'altro 6 anni di interdizione anche dei pubblici uffici confiscati a carico di Roberto Formigoni. Il Tribunale di Milano ha disposto anche la confisca di 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di proprietà di una villa in Sardegna. Il giudice ha deciso il trasferimento di alcune quote in capo allo storico amico di Formigoni, Perego, assolto invece questa mattina. Formigoni deve versare intanto a titolo provvisionale 3 milioni di euro in solido con Daccò. E, quindi con Daccò e con l'ex assessore Antonio Simone, una provvisionale complessiva alla Regione Lombardia di 3 milioni di euro. Daccò condannato a 9 anni, Simone a 8 anni, sempre per la vicenda San Raffaele. Certo che insomma 6 milioni e 600 mila euro di confisca. Io non voglio entrare nei casi della vita di Formigoni, tanti soldi per essere confiscati. Poi uno può sempre dire, certo, li ho ricevuti in eredità di famiglia e quant'altro, ma sicuramente non sono i risparmi di una vita da presidente di regione, perché è vero che lo stipendio non è male, ma non è tale da portare a un risparmio del genere. E comunque lì, adesso, al di là delle battute, la magistratura ritiene che anche la villa in Sardegna fosse uno degli elementi di scambio per l'operazione appunto che riguardava San Raffaele, ma soprattutto Fondazione Maugeri in questo caso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, partiremo subito con Almaviva, però, perché c'è un colpo di scena. Praticamente le aziende e i sindacati avevano accettato in tarda serata la proposta di mediazione del governo, l'RSU di Roma però non hanno firmato, ossia le rappresentanze sindacali romane non hanno firmato, e a questo punto per i 1666 lavoratori della sede romana partiranno le lettere di licenziamento, che potrebbe partire già oggi. Avremo ospite il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova. L'accordo si è raggiunto infatti su Napoli e Roma ha votato no, e il no di Roma porta inevitabilmente ai licenziamenti. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio siamo a 53 dollari, ma in tema di petrolio faccio notare che oggi la Procura di Milano ha chiuso le indagini per il caso Eni Nigeria a carico di 11 persone fisiche e due società. Tra i destinatari dell'avviso di conclusione di indagini ci sono anche l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e il suo predecessore Paolo Scaroni, nonché l'uomo d'affari Luigi Bisignani. Le due società indagate sono Eni e Shell. Eni ha ribadito, preso atto della chiusura delle indagini, la correttezza dell'operazione relativa all'acquisizione della licenza per lo sfruttamento del blocco OPL 245, conclusasi senza intervento, come ricorda l'azienda in una nota, di alcun intermediario da Eni e Shell con il governo nigeriano. Continua a accelerare invece l'economia statunitense, più 3,5% il PIL nel terzo trimestre, il dato rivisto a rialzo contro il 3,2% della precedente stima. È salito, altro che insomma effetto Trump c'è, ma per ora è un effetto positivo. È salito del 3,5% spinto dai consumi, che hanno fatto un più 3%, soprattutto i consumi hanno modificato in senso positivo le stime. Ancora, la Banca Centrale Europea oggi dice che la ripresa è più solida e l'inflazione presto andrà oltre l'1%, dimostrazione che l'economia si sta riprendendo con un passo più accelerato. L'inflazione in questo caso è un buon dato, nel senso che l'inflazione pari a zero segnalava un'economia stagnante a essere buoni nell'area euro. La BCE prevede che a breve possa arrivare oltre l'1%. Ancora, per quello che riguarda le dichiarazioni della Banca Centrale Europea, oggi il presidente della Bundesbank e consigliere della BCE Hans Weidmann ha detto: attenzione, la BCE non ritardi gli aumenti dei tassi per aiutare alcuni governi, non ceda al timore dell'impatto sui bilanci in difficoltà. Invece, già ieri ricordavamo la vicenda delle banche spagnole, i risarcimenti da 5-7 miliardi vanno dati ai clienti spagnoli. La Corte Europea infatti ha bocciato i limiti alle cause dei clienti che avevano un mutuo a tasso minimo. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, Radio 24 Sole 24 Ore, e ascoltiamoli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Sono ancora le banche a tenere banco sui mercati internazionali e sui grandi media, non soltanto per la questione del Monte dei Paschi, che sarà probabilmente la prima banca europea ad essere nazionalizzata dopo l'avvento del bail-in, ma soprattutto per un altro motivo che riguarda tutti i consumatori e i risparmiatori. La Corte di Giustizia europea ha infatti stabilito, con sentenza definitiva, che le banche spagnole dovranno restituire la bella cifra di oltre 5 miliardi di euro a tutti i clienti che hanno sottoscritto dei mutui prima del maggio 2013, quando cioè i tassi di interesse cominciarono a finire sotto lo zero. La manovra della BCE straordinaria e soprattutto il quantitative easing hanno infatti spinto, insieme ai tassi ufficiali di sconto sotto lo zero, un po' più o meno tutti i tassi di interesse dell'Eurozona vicini ai livelli minimi storici. Ma chi aveva comprato un mutuo, che aveva preso un mutuo da una banca prendendolo ad esempio a tasso fisso e praticamente stava pagando molto di più del dovuto, o anche a tasso variabile e continuava a pagare interessi malgrado i tassi fossero sotto zero, hanno chiesto il rimborso. Un rimborso che a questo punto gli sarà di diritto, tant'è vero che le banche spagnole oggi hanno perso in borsa il 10%. Sostanzialmente il punto è questo: chi dimostrerà di aver pagato di interessi più del dovuto, poiché i tassi sono sotto lo zero, avrà diritto a un rimborso dalla propria banca, rimborsi che saranno variabili a secondo dell'ammontare finale, che sarà stato stabilito poi dalle banche e dagli arbitrati. In Italia questo non è possibile, perché a questo punto nessuno ha fatto ricorso e soprattutto la stessa Banca d'Italia aveva deciso di non permettere sostanzialmente alle banche di restituire i soldi, ma certamente questo è un precedente che dovrà essere affrontato, perché altrimenti emergeranno nuovamente delle asimmetrie, non soltanto tra singoli paesi, ma anche tra singoli consumatori e risparmiatori. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, veniamo al primo tema di approfondimento, che riguarda la vicenda abbastanza assurda di Almaviva, però due notizie ancora in breve. Il commercio, il vendita al dettaglio, quindi i consumi interni del paese, hanno registrato a ottobre un incremento dell'1,2% rispetto a settembre, l'incremento più forte dal 2011, ma attenzione, rispetto a un anno prima, che ci interessa un po' di più, c'è ancora un calo nei consumi dello 0,2%, male in particolare i piccoli negozi. L'industria invece a ottobre ha fatto più 0,8% come fatturato e più 0,9% rispetto a settembre, ma anche qui c'è una flessione rispetto a ottobre del 2015, meno 4% il fatturato, meno 3,2% gli ordinativi. Questa non è una buona notizia, perché gli ordinativi dell'industria ci danno, sono un indicatore anticipatore di quella che poi sarà l'andamento del fatturato dell'industria stessa. Vabbè, della Salerno Reggio Calabria non voglio parlare, ha già parlato Oscar Giannino, non so cosa ci sia da festeggiare dopo 55 anni di lavori. Scrivono molti ascoltatori che ancora con l'entrata del Cosentino l'autostrada è, diciamo, non è una vera autostrada per la pendenza, le curve. Fatto sta che oggi, con l'apertura al traffico della galleria La Ria a Cosenza, si sono conclusi i lavori avviati nel 1955, e a questo punto per realizzare, a questo punto è percorribile tutta a tre e a due corsive per senso di marcia, con standard autostradali. Presenti oggi il ministro delle infrastrutture del Rio e il presidente dell'ANAS Gianni Armani, che hanno percorso il tracciato insieme ai giornalisti. Poi il viaggio si è concluso a Villa San Giovanni alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Noi restiamo invece in tema di governo, ma ringrazio per averci aggiunto in collegamento il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Per parlare di Almaviva, allora, che cosa è successo oggi? È successo che, allora, piccola sintesi, a ottobre Almaviva Contact aveva avviato la procedura di riduzione, il gigante dei call center del gruppo Almaviva, la riduzione del personale solo a pochi mesi da un precedente accordo raggiunto a maggio, per scongiurare appunto il licenziamento di 3.000 persone. Allora, la prima procedura nell'area, evocata più volte dagli addetti ai lavori, che insomma dicevano nel settore non va così bene, ma vive un gruppo da 80.000 persone, sta delocalizzando, deve abbassare i costi e quant'altro. Dopodiché si era arrivati a un accordo, nel senso un'intesa transitoria per evitare i licenziamenti. Hanno firmato però le rappresentanze sindacali unitarie RSU di Napoli e quella di Roma, se ho ben capito, vice ministro, anzi ha firmato no, e a questo punto partono le lettere di licenziamento, sono 1.666 dipendenti? Sì, c'era una procedura di mobilità in corso che scadeva ieri sera alle 24. E noi ci siamo fatti carico in questa trattativa, la procedura di mobilità dura 75 giorni, in questi 75 giorni azienda e sindacati non sono riusciti a trovare un'intesa e noi avevamo avanzato qualche giorno fa l'idea di un lodo proposto dal governo che non è stato accettato dalle organizzazioni sindacali e dall'azienda. Ieri abbiamo chiamato le organizzazioni confederali e ci siamo confrontati con Susanna Camusso, Furlan e il segretario generale della UIL, e oltre che con i segretari di categoria, avanzando un'ipotesi che mettesse al riparo i posti di lavoro per evitare il licenziamento di 2.511 lavoratori. L'accordo prevedeva il ricorso alla cassa integrazione fino al 7 di aprile, sì, e l'impegno tra le parti con la supervisione, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, da parte del governo, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, per trovare un'intesa sulle questioni che avevano già in parte convenuto: il controllo a distanza, il recupero di efficienza e di produttività nei due siti dove c'è una produttività inferiore rispetto agli altri siti del gruppo, e un temporaneo intervento sul costo del lavoro. Su questi temi noi abbiamo aggiunto il tema della ricerca di nuove commesse da parte dell'azienda, e quindi spostare da ieri sera al 7 di aprile il tempo per trovare un'intesa, dando la possibilità ai lavoratori che volessero utilizzare la mobilità volontariamente di poterla utilizzare. Su questa sintesi, sulla quale hanno convenuto le organizzazioni confederali e i segretari di categoria, c'è stata l'intesa dei rappresentanti sindacali di Napoli e c'è stato invece il dissenso dei 13 rappresentanti sindacali di Roma. Allora, vice ministro, la nostra Anna Marina ha raggiunto da un lato l'assessore al lavoro della Regione Campania, Sonia Palmieri, presente alle trattative, dall'altro invece anche Massimo Cestaro, rappresentante del sindacato SLC, presente alle trattative notturne, la parte romana, diciamo che non ha firmato. Ascoltiamo in rapida sequenza le due dichiarazioni, una molto positiva, chiaramente quella dell'assessore al lavoro della Regione Campania Palmieri, l'altra invece che spiega il perché della spaccatura. Non solo da fiato fino al 7 di aprile, ma ci permette anche di parlare con un clima un po' più disteso poi di tutto ciò che bisogna mettere sul tavolo. Quali sono le altre richieste? Di ricorrere a delle misure strutturali di analisi del fenomeno dei call center, regolarizzare il rapporto tra Almaviva e i dipendenti, e per far ciò c'è necessità chiaramente di un periodo ulteriore. C'è stata questa spaccatura, come mai? La spaccatura è stata determinata da rappresentanze sindacali aziendali del sito del Lazio, della CGIL. Un plebiscito, che risposta è stata per tutti e 17 no. Le motivazioni, loro non hanno inteso firmare questo accordo perché non era per loro risolutivo, pur sapendo che già da oggi possono partire le lettere di licenziamento, in quanto i 75 giorni della procedura sono stati integralmente consumati. La RSU di Napoli ha valutato che questa possibilità di guadagnare ancora un po' di tempo fosse utile per tentare di trovare un'intesa, sapendo tutti che sarà un'intesa molto molto complicata. E per quanto riguarda Roma, questa decisione ha creato una spaccatura nel sindacato tra i vertici e questa rappresentanza? C'è stata una profonda diversità di valutazione sulla fase. La RSU di Roma ha preso una decisione che va rispettata. La mia opinione, se avessero assunto una posizione diversa, saremmo stati nelle condizioni di prendere tempo anche per il plebiscito di Roma. È del tutto evidente che la situazione oggi è un po' più complicata rispetto a ieri. Mi scusi vice ministro, ma io non capisco una cosa, perché ogni decisione sindacale va rispettata, però qui non è, se ho ben capito, non è che l'aver rotto la trattativa da parte dell'RSU di Roma porterà a chissà quale scenario di contrapposizione. Patron, lettere di licenziamento. Beh, è una procedura di mobilità, come ben sanno le organizzazioni sindacali e i rappresentanti aziendali. E questo, ci sono 75 giorni di tempo, i primi 40 sono in sede sindacale e i secondi 35 sono in sede istituzionale. Noi li abbiamo fatto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, io li ho seguiti personalmente dal primo all'ultimo incontro fino a stanotte alle 3:30, quando per il sito di Napoli c'è stata la disponibilità a firmare da parte dell'azienda e dei rappresentanti sindacali oltre che dei rappresentanti nazionali, e sul sito di Roma invece si è creata questa situazione. A me dispiace molto, infatti questa mattina ho fatto l'ennesimo appello ai rappresentanti sindacali di categoria e all'RSU di Roma di rivedere questa loro decisione, perché è peccato negare a 1600 persone il tempo di 3 mesi. In 3 mesi possono accadere tante cose, si può fare il lavoro che non è stato fatto in precedenza per raggiungere un'intesa, ci possono essere nuove commesse, ci possono essere modifiche nell'andamento del settore e ci sono le scelte che il governo ha compiuto nella legge di stabilità che sono maggiormente incisive sul controllo delle delocalizzazioni. Rifiutare un accordo che da domani mattina non avrebbe tolto un euro ai lavoratori. Le organizzazioni sindacali mantengono intatto il loro diritto in questi 3 mesi a trattare, se c'è un'intesa bene, se non c'è un'intesa, a partire dal 31 di marzo l'azienda potrà fare quello che purtroppo temo farà nelle prossime ore per quanto per riguarda Roma. Mi scusi, ma lei ha parlato con di nuovo con l'RSU romano? No, lo dico perché a me sembra abbastanza allucinante questa vicenda, nel senso che se il problema era aspettare 3 mesi, a sto punto io non sono un grande esperto di relazioni industriali, ma ti conveniva aspettare 3 mesi, vedere se qualcosa si sbloccava, e ma che vada, a quel punto rompevi le trattative fra 3 mesi. Esatto. E vede, io non so se 3 mesi possono rappresentare un tempo sufficiente perché cambi realmente qualcosa. Sicuramente sono più di niente. Ieri sera alle ore 24 scadevano i termini della procedura di mobilità, abbiamo allungato il tempo fino al 31 di marzo, dando copertura di ammortizzatori sociali e anche di far rientrare nei siti di Napoli e Roma, che al momento sono completamente fermi, di far rientrare il lavoro, tant'è che la cassa integrazione si prevede a gennaio per la prima parte il 100%, poi il 70%, poi il 50%, cioè siti che tornavano ad avere attività vera. Allora, è chiaro che il 31 marzo era l'ultima scadenza, lo dico a chi sta scrivendo al 349-238-6666, però 3 mesi in più, intanto ho capito che non è una gran prospettiva di vita, scavallavi il Natale e Capodanno, adesso voglio spiegare a chi scrive che partono le lettere di licenziamento per la parte romana. Ora, ma tra l'altro su questo non avrebbe avuto più senso anche chiedere un voto ai 1666, perché io non so se siano tutti d'accordo su questo, vice ministro? È quello che noi abbiamo chiesto, abbiamo detto alle organizzazioni e ai loro ai rappresentanti aziendali, prendetevi il tempo, cioè, ci sono state queste settimane, noi abbiamo aggiornato l'incontro avanti ieri a mezzanotte perché le organizzazioni sindacali ci hanno chiesto di aggiornare, nonostante ci fosse la mia disponibilità ad andare avanti ininterrottamente. Ieri potevano prendere il tempo per dire che questa mattina facevano un referendum, facevano un'assemblea tra i lavoratori, acquisivano il mandato, perché onestamente io rispetto le organizzazioni e rispetto gli RSU, ma ritengo di dover dire in piena onestà che 13 persone, per quanto autorevoli possibili, non possono tenere in ostaggio la vita di 1600 persone. Quando io non so se la tengo in ostaggio, andare ad acquisire un mandato, perché ieri sera è stato prodotto un fatto nuovo. Le persone, anziché essere licenziate, hanno 3 mesi di tempo per confrontarsi e trovare una alternativa. Ai lavoratori romani non so quando è stata sottoposta questa opportunità per poter scegliere e dare un mandato per chiudere o per dire accettiamo purtroppo. No, ma guardi, io su questo sono d'accordo con lei, nel senso che quando la trattativa sindacale non riguarda un integrativo o, per carità, cosa importante, certo, ma riguarda la permanenza stessa nel luogo di lavoro, cioè che adesso partono le lettere di licenziamento, secondo me, poi magari avrebbero ottenuto il 90% delle adesioni, ma secondo me tu, visto che a Napoli invece vanno avanti altri 3 mesi e si spera, poi vedremo, poi il 31 marzo magari saremo qua a commentare che non c'è stata nessuna possibilità, ma prima di buttare via tutte le possibilità, meglio tenerle aperte. Quando tu decidi che sotto Natale, il 22 di dicembre, partono le lettere di licenziamento per 1.666 persone perché tu hai rotto la trattativa sindacale, dovresti, a mio avviso, su una cosa così delicata, chiedere il voto, quindi avere un mandato ampio, pieno e indiscutibile da parte della maggioranza dei lavoratori che rappresenti, perché sennò 13 rappresentanti, con tutto il rispetto dell'RSU, voglio dire, sbagliano anche i sindacati, non è che sbagliano solo i datori di lavoro. Resti con noi, vice ministro, che ho un'ultima domanda da fare dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, vice ministro, due domande rapidissime. La prima, c'è ancora margine per i lavoratori romani, i 1.666, oppure adesso partono le lettere di licenziamento ed è finita così? Guardi, noi ieri sera abbiamo detto alle persone quello che ha detto l'azienda, che ha comunicato direttamente. L'azienda aveva già detto che da oggi avrebbe fatto partire le lettere. Io stamattina, come dicevo prima, ho fatto questo ennesimo appello, non ho ricevuto alcun segnale dalle organizzazioni territoriali di Roma e del Lazio e temo che non sia stato messo in campo alcun confronto con i lavoratori. Questo dispiace molto perché ancora oggi c'erano le condizioni per poter recuperare il mancato accordo. Adesso vorrei cambiare radicalmente tema, perché poi passo a Monte dei Paschi con un brevissimo inciso su Mediaset. Ripeto, oggi il titolo non ha avuto, non vi sono novità, il calo è del 12-40% più che altro per vendite, dopo che insomma le quote di Vivendi sono arrivate al massimo possibile e quelle di me e di Fininvest devono stare lì, a meno che non voglia lanciare l'OPA. Ascoltiamo in sequenza due dichiarazioni di ieri, perché poi vorrei un suo commento sulla vicenda. Una è di Silvio Berlusconi, che ha detto, insomma, come oggi su molti giornali, qui siamo oggetto di estorsione da parte di Vivendi, ma resistiamo. E poi, sempre in sequenza, il ministro Calenda, che ha detto l'operazione la giudichiamo negativamente, ma non faremo provvedimenti ad hoc. In parole povere, ci hanno fatto un ricatto, un'estorsione, e quindi noi non abbiamo accettato di condividere questa posizione e quindi siamo in battaglia di fronte anche a questa scalata ostile che hanno fatto dentro Mediaset, e pensiamo di resistere giustamente, perché non mantenere la parola e comportarsi in questa maniera è qualcosa che non si può accettare. Io l'ho detto molto chiaramente quando ho fatto la prima dichiarazione. Noi abbiamo detto, il governo ha detto, che non ci sembra il modo giusto di arrivare a investire in Italia, in un settore importante come quello dei media, quello di fare una, diciamo, un'iniziativa chiaramente ostile e soprattutto un po' opaca, cioè nel senso che ad oggi non è molto chiaro qual è l'obiettivo finale. Bisogna rispettare il mercato, però allo stesso tempo non è che il mercato è incommentabile, non è un dogma. Anche le operazioni che si svolgono all'interno del mercato possono essere positive o possono avere ricadute non positive. Al momento noi riteniamo che questa operazione abbia dei connotati ancora troppo opachi per giudicarla, diciamo, positiva, e per cui il nostro giudizio rimane un giudizio sostanzialmente negativo, ma questo non vuol dire che si facciano dei provvedimenti ad hoc. Allora, vice ministro, il ministro Calenda, l'abbiamo appena ascoltato, però al di là delle valutazioni, voi allo sviluppo economico, di cui lui appunto, lei è appunto vice ministro, non è che il governo possa fare molto, mi sembra di aver capito, nel senso che può dare un commento quasi di carattere politico dicendo che l'operazione viene valutata negativamente per le modalità in cui si è svolta e soprattutto perché non è ancora chiara la finalità. Immaginiamo anche noi che un obiettivo ci sia, che se sia poi un obiettivo su Telecom o addirittura un obiettivo più ampio, continuiamo a, diciamo, speculare su questo da giorni, ma voi non farete nulla a questo punto? Anche guardi, perché questo dossier non è nelle mie mani perché lo sta seguendo direttamente Calenda. La mia opinione è che Mediaset va trattata come qualsiasi altra azienda, come gli asset strategici per questo paese, che sono un bene prezioso da preservare insieme al lavoro e al lavoro qualificato che sta dentro queste strutture. E il governo è giusto che sia dal punto di vista della copertura politico-istituzionale deve dare, e laddove ci sono degli spazi di intervento è giusto, quindi, che questi quindi secondo vengano lei esercitati, ma insisto, non no, è no, un fascismo no, no, no, ma lo so quindi, benissimo, ecco. No, ma volevo capire la sua opinione, cioè, quindi, la sua idea è che Mediaset sia un'azienda strategica, no, perché il governo non ha detto nulla quando Bolloré si è preso la maggioranza relativa di Telecom. Allora, di solito sono più strategiche le aziende, i gruppi energetici. No, io questo lo dico in generale perché dico questo perché lo penso per, come dicevo prima, per tutti le strutture, le importanti strutture. Io ritengo che il nostro paese debba fare una importante riflessione anche sulle multinazionali. Noi abbiamo anche accumulato nel corso degli anni dei ritardi sui quali dobbiamo necessariamente fare delle riflessioni e farle rapidamente. Io vedo proprio dalla mia postazione, dai fascicoli che seguo, che sempre più spesso ci si trova di fronte anche a processi di riduzione di personale e a comunicazioni che vorrebbero saltare una serie di procedure. Sì, ma non è questo il caso, perché insomma non c'è nessun licenziamento in Mediaset. No, non c'è comunque nessuno, diciamo, ecco, però bisogna capire la natura di questa operazione e quello che può determinare in prospettiva. Va bene, grazie anche al vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova. Allora, un paio di risposte. Dunque, no, nessuno ha detto che vogliamo dei sindacati asserviti a Napoli, non hanno fatto il referendum. Io ho detto semplicemente che quando decidi di rompere le trattative su Almaviva a Roma e sai che partono poche ore dopo le lettere di licenziamento, a mio avviso, in quel caso dovresti per correttezza chiedere rapidamente di pronunciarsi tutti i dipendenti che tu rappresenti, perché è una decisione enorme. No? Tutto qui. Dopodiché è ovvio che andare avanti per altri 3 mesi, aspettare il 31 marzo e vedere se si sblocca qualcosa è una decisione più morbida, ma lo capisce anche un bambino. Sul governo, ragazzi, insomma, mi sembra abbastanza chiaro, non hanno un appiglio concreto, tant'è che Calenda ha detto noi non siamo politicamente da giudichiamo negativamente, ma non ci muoviamo. Ma dove si può muovere il governo? Abbiate pazienza. Adesso Mediaset è un'impresa strategica del paese, va bene. Tralascio qualunque battuta sui giudizi che dava il PD ai tempi del governo Berlusconi su Mediaset, del conflitto di interessi, ma il problema è che non lo decide la contingenza quando è strategica o no un'azienda. Ormai in tutto il mondo occidentale sappiamo che ci sono settori definiti strategici, tant'è che esiste anche la Golden Share e ci sono anche delle limitazioni che non valgono nel caso di Vivendi se non sei una società europea. Ma sono i settori della difesa aerospazio, dell'energia e approvvigionamento energetico e anche delle telecomunicazioni. Faccio notare che il governo Renzi non ha speso mezza parola quando Vivendi saliva al 24% di Telecom Italia, ok? L'unica diatriba era su chi avrebbe dovuto fare la digitalizzazione del paese e, come spiegavamo anche ieri, l'idea fu quella di utilizzare l'Enel quasi in contrapposizione di Telecom, ricorderete gli scambi di battute, per cui è difficile adesso svegliarsi e fare le demi-vierge, le mezze vergini, perché non hai mosso un dito quando veniva scalata la principale gruppo telefonico, l'incumbent, l'ex monopolista di Stato, di un settore, quello sì, strategico, come il possesso dei dati delle utenze telefoniche e di quello che circola sulla rete. Cioè, voglio dire, un minimo di... Ecco perché poi Calenda, pur giudicando negativamente, dice non faremo nulla. Ma cosa puoi fare? L'unica, diciamo, speranza per Fininvest a questo punto sono i giudizi della Consob e della Gcom. Però attenzione, perché anche lì c'è chi dice, va bene, può essere che a questo punto Bolloré venga spinto a cedere la sua quota in Telecom a Orange e a questo punto non avrebbe neanche il problema con la Gcom qualora dovesse essere dimostrato che ha due posizioni di controllo in Mediaset e in Telecom Italia. Cioè, la frittata è fatta. E poi parlare di ricatto, lo dico con massimo rispetto, quella è una protezione di scalata ostile, siamo d'accordo, ma le acquisizioni si fanno anche con le scalate ostili. Non sono proibite dalla legge le scalate ostili. Il problema è che hanno dormito un po' in Fininvest, diciamola tutta, perché sono scesi come quota a gennaio 2015, che gli avrebbe fatto molto comodo adesso. Hanno collocato sul mercato più dell'8% del capitale e non si sono accorti di quello che stava capitando dentro, evidentemente. Vabbè, andiamo sul traffico, mentre saluto e ringrazio per averci aggiunto in collegamento Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Monte dei Paschi, il giorno della verità, insomma, giorno della verità molto attesa, il giorno della verità per gli obbligazionisti, della amara verità per gli obbligazionisti, ma soprattutto vedremo se stasera arriverà o domani mattina il decreto del governo, che ormai è scontato che arrivi. Dopo il traffico, l'analisi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, non ce l'ha fatta Monte dei Paschi a raccogliere, come era ampiamente immaginabile, i 5 miliardi in così poco tempo. Gestione, l'abbiamo detto molte volte, fallimentare della vicenda, anche da parte dell'ex governo che ha voluto mettere tutto quanto dopo il 4, ex governo Renzi, dopo il referendum del 4, così il tempo ormai, la BCE non ha dato la possibilità a Monte dei Paschi di avere più giorni, quindi il tempo tra referendum e chiusura dell'operazione era talmente breve che anche se non avesse voluto in 4 giorni, come facevi a raccogliere quel momento di capitale? Si va al 31 dicembre, in cui la BCE ha chiesto a Monte dei Paschi di portare a termine l'aumento di capitale. Già ne trovate 5 miliardi, ne mancano almeno 3 all'appello. Che cosa prevederà, da quello che si è capito, il decreto del governo? Allora, il decreto del governo stanzia prima di tutto questo maxi fondo da 20, fino a 20 miliardi, che sarà poi utilizzato per la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi, ma anche poi per intervenire successivamente su altre situazioni di difficoltà nel sistema del credito. Il tema principale, come giustamente ricordavi tu, è la sorte dei titolari di obbligazioni subordinate. In particolare c'è questo titolo emesso nel 2008, le obbligazioni subordinate, ricordiamolo, sono quelle che ti danno un po' più di rendimento, ma perché ti comportano un po' più di rischio. Perché possono essere convertite in azioni a quel punto. E appunto quello, che sono diciamo più avanti di quelle ordinarie nella lista dei titoli su cui arriva la possibile mazzata quando le cose vanno male. È il caso di Monte dei Paschi, ci sono circa 40.000 piccoli risparmiatori che hanno comprato, si sono fatti vendere questo titolo nel 2008, scadenza 2018, che adesso si trovano in mano questa roba. Chiusa senza successo la conversione volontaria, che li pagava a 100, cioè a premio rispetto ai valori attuali, arriva la conversione forzosa, che li pagherà poco. Li pagherà poco, ma il governo ha, come dire, trattando in se maniera... Se chiariamo che quella volontaria te li pagava a 100, cioè se tu avevi... Ma poi tu con quei 100 se dovevi comprare azioni. Se tu avevi comprato 1.000 euro, sì, ti lasciava 1.000 euro, però te li convertiva tutti in azioni. Sì, no, con i 1.000 euro non potevi andare a fare le vacanze di Natale, no, te li... Era sempre una conversione, dovevi aderire alla conversione. Adesso partirà quella obbligatoria. Sì, il forzoso. Problema, se ho ben capito, è capire quali sono stati, per intervenire con i ristori, gli risparmiatori a cui queste obbligazioni subordinate sono state vendute in maniera scorretta, cioè con un profilo di rischio non adeguato, per cui un basso profilo di rischio, con bassa propensione all'investimento finanziario, e lì puoi dire intervengo con il ristoro. Perché voglio dire, se io avessi comprato le subordinate 2008 del Monte dei Paschi un anno fa per guadagnare magari sul beh, lì non sono un risparmiatore con un basso profilo di rischio. Certo, poi c'è il tema che per la MiFID il profilo di rischio è qualcosa di oggettivo, non è una cosa che va valutata così a naso secondo l'opinione di chi hai davanti. Di conseguenza il governo, in una serrata trattativa con la Digicom, cioè con la Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, sta cercando di sostanzialmente mettere in campo una rete che riconosca il più ampio, nel più ampio novero dei casi possibile, questa situazione. Questo vuol dire che la perdita che tu hai in conto capitale per il prezzo di conversione più basso che ti viene riconosciuto sarà sottoposta a meccanismi di rimborso ex post. Ora, quello che possiamo dire allo stato attuale, poi leggeremo il decreto su cui naturalmente le bocche sono state cucitissime perché ufficialmente l'operazione di mercato era aperta, quello che possiamo dire oggi è che tendenzialmente ci sarà un ombrello piuttosto ampio, ma non semplicissimo da utilizzare. L'esperienza precedente, che è quella delle quattro banche, che ancora devono vedere i soldi. Ma non solo, negli arbitrati lì c'erano due indennizi, uno forfè all'80%, un meccanismo automatico che è partito, e uno invece, per chi riteneva di aver diritto fino al 100%, tramite gli arbitrati. Il decreto banche ha più di un anno, il via libera del Consiglio di Stato alle regole sugli arbitrati è arrivato ieri, giorno 21 mi pare, di dicembre del 2016. Questo vuol dire che tutti i meccanismi di rimborsi ex post hanno, come dire, un complicato sistema di gestione e soprattutto hanno forti ricadute sociali e politiche. Per questo siamo arrivati sotto Natale a parlarne, perché il Monte dei Paschi fosse un problema lo sappiamo da talmente tanto tempo che già prima dell'estate si era tentato con l'Europa di ottenere il via libera al salvataggio pubblico. Non ci si era riusciti e quindi ci si è imbarcati in questa complicatissima, sia dal punto di vista dei tempi sia da quello dei meccanismi, operazione di mercato che non è riuscita. E adesso le conseguenze le pagano gli obbligazionisti. In una battuta, ci hanno trovati gli azionisti, invece per ora insomma hanno già pagato in borsa. Beh, gli azionisti hanno già pagato in borsa e il burden sharing potrà arrivare anche su di loro, ma naturalmente, come dire, sulle azioni la prospettiva è diversa, tu devi guardare a lungo tempo, se arriva lo Stato queste magari ripartono. Allora, vedremo se stasera o domani mattina arriverà il decreto, casomai lo commenteremo domani nella puntata di Focus Economia finale. Grazie intanto, Gianni Trovati. Andiamo sul GR24. Qualcuno dice com'era bravo Renzi per lei nella gestione Telecom delle banche. Guardi, se non è che ho voglia di rifare, se lei mi becca una puntata di Focus Economia in cui abbiamo detto che la gestione delle quattro banche fu una bella gestione col casino che venne fuori e la gestione Telecom una bella gestione, me la mandi, faccio riascoltare l'audio. Io non ho ricordi di questo, anche nella vicenda digitalizzazione del paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp, GR24. Festeggiare, regalare, illuminare, cantare, gioire, incontrare, ritrovare, brindare, mangiare, abbracciare, baciare. Radio 24, libera la voglia di Natale. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. La borsa oggi, vi dovete accontentare di me, meno 0,50% Milano, invariata alla fine Parigi, meno 0,1% Francoforte, quindi invariata anche Francoforte, di fatto più 0,30% Londra, Dow Jones meno 0,25%, al di là del Monte dei Paschi e di Mediaset, di cui abbiamo già parlato. Comunque faccio notare che Mediaset ha perso il 12,40%, il Monte è peggiorato nel finale meno 7,5%. Male anche Fiat Chrysler meno 3%, Telecom Italia meno 2,20%. Qui riguarda anche le speculazioni che stanno investendo Mediaset e cosa potrebbe fare Bolloré della sua quota in Telecom Italia. Attenzione che si va verso il finale d'anno e quindi si chiudono anche alcune posizioni. Buzioni c'è meno 1,40%, Ferrari meno 1,1%, A2A meno 1% come Terna e Prismian. Bene invece Saipem più 2,70%. ha completato con successo le prove in mare dei nuovi ROV, che sono veicoli sottomarini pilotati da una postazione remota. La notizia è stata diffusa, il titolo se ne avvantaggia. Pop Milano più 2,60, Banco Popolare più 2,5%. Sono positive quasi tutte le banche italiane, al di là di Monte dei Paschi. Unipol più 2,40, Biper Banca più 2,20, Unicredit più 0,60%. Migliori e peggiori in assoluto: Bion più 23%, Adventure Group più 15%, Waste Italia più 10%, Visibilia più 8%, D'Amico più 6,70%. Fronte opposto, oltre a Mediaset, che è il peggior titolo in assoluto: Pininfarina meno 7,90%, Monte dei Paschi abbiamo detto meno 7,40%, Stefanel meno 7%, come Italia Independent. Allora, prima di arrivare alla vicenda Etruria e Formigoni, vorrei capire lo stato dell'arte nella vicenda l'Italia, perché all'alba, da quello che abbiamo capito, si è raggiunto un accordo sul finanziamento della seconda parte del piano industriale di Alitalia. Dovrebbe consentire di sbloccare 180 milioni di euro di linee di credito che vedono Intesa San Paolo e Unicredit in prima linea. Le due banche sono non solo creditrici ma anche azioniste della compagnia Alitalia, e da quello che abbiamo capito questo potrebbe permettere all'Alitalia di arrivare fino a metà marzo e affrontare la rimodulazione del piano, di Ball, quello manager che viene da Etihad, e l'ipotesi di conversione in azioni di parte del debito finanziario. Celestina Dominelli del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Qual era l'oggetto di contendere e perché si è arrivati fino all'ipotesi circolata ieri, nei giorni precedenti, che Etihad potesse quasi mollare il colpo e cedere la sua quota a Lufthansa? Allora, diciamo che quello che è stato raggiunto oggi in realtà è un tentativo così di evitare il fallimento di Alitalia, che versava in condizioni piuttosto critiche dal punto di vista della liquidità. Quindi quello che è maturato, come dicevi giustamente tu, tra la notte di ieri e l'alba di stamattina è appunto un primo tentativo tampone di consentire, che consente all'azienda di sopravvivere, insomma di andare avanti per almeno 2 mesi, in modo da poter mettere mano a quelli che sono i temi più importanti, e soprattutto la messa a punto di un piano industriale che sia giudicato credibile, che garantisca realmente il rilancio dell'azienda. Ed è appunto su questo che sono nate le tensioni tra il socio forte di Alitalia, Etihad, e quelli che poi sono appunto gli altri azionisti, in particolare, come ricordavi tu, le due banche, Intesa e Unicredit, che sono appunto contemporaneamente soci e creditori dell'aviolinea. Sostanzialmente le banche giudicano, hanno bocciato fondamentalmente le scelte messe in campo dai vertici dell'ex compagnia di bandiera, che sono appunto vertici espressi dai soci emiratini, e quindi si è creato appunto questo braccio di ferro con gli istituti di credito, che hanno chiesto impegni più stringenti e di mettere appunto un piano molto più rigoroso di taglio dei costi. E Etihad, che ha anche dei problemi non soltanto legati ad Alitalia, ma anche alle altre operazioni che è andata a fare in Europa, a cominciare da Air Berlin, che sono tutte un po' in perdita, e questo ha portato anche a notevoli difficoltà ai vertici della stessa compagnia emiratina, dove l'attuale numero uno, James Hogan, appunto è sotto tiro, insomma, e pare che sia... Sì, sono tornate a circolare le voci di una di possibili dimissioni di Hogan, che è da un lato il numero uno del gruppo Etihad e anche vicepresidente di Alitalia, quindi sono tornate a circolare anche oggi proprio per le difficoltà del gruppo. Per quello che riguarda invece il fronte Alitalia, che cos'è che non ha funzionato? Perché noi abbiamo visto un piano obiettivamente di rilancio da parte di Etihad, nuove rotte, tornare a concentrarsi sulle rotte a lunga distanza utilizzando Abu Dhabi come hub di snodo, quindi da Venezia, da Milano e anche da Roma. Nuove tratte, mi sembra che però i problemi siano tutt'altro che nuovi, cioè resta sempre un problema di redditività del gruppo. Sì, come ricordava proprio Kramer Bologi nel comunicato che è stato diffuso poco fa dall'Italia, il mercato del trasporto aereo è un mercato molto complicato, in cui Alitalia si misura da un lato con la competizione di compagnie che ormai sul medio e lungo raggio hanno una presenza estremamente consolidata, e dove è difficile fare una competizione realmente sfidante se non si hanno mezzi, che significa appunto aerei che possono fare questo tipo, diciamo, di tratte, e ovviamente grandi risorse alle spalle. Ma c'è poi un altro tema, che è quello appunto della concorrenza spietatissima che viene lanciata dai vettori low cost. Su quest'ultimo fronte Alitalia ha cercato in qualche modo di difendersi, ma insomma la battaglia è stata persa miseramente. E c'è poi appunto un tema, che è quello che su cui battono moltissimo le banche, di tagli dei costi che sono stati fatti in maniera estremamente tiepida, quindi di fatto l'azienda da una parte non è riuscita a fare profitti e dall'altro poi non è intervenuta in maniera convincente su quelli che sono appunto costi che si ripropongono, diciamo, a ogni piesso spinto. Quindi di fatto gli stessi, anche i sindacati oggi, che poi peraltro hanno incontrato, diciamo, il management nel pomeriggio, insomma, si lamentano del fatto che vengono fatti continui sacrifici soprattutto sul lato del personale, ma insomma questa azienda non riesce a ripartire in maniera Devo dire che il ministro Calenda oggi ha detto siamo tutti a lavorare insieme ai ministri Del Rio e Padoan affinché le situazioni migliori, e all'Italia è strategica, lavoriamo perché cresca. Detto questo, faccio notare appunto che il problema, io vorrei capire solo una cosa. Cioè, adesso ci sono altri 2 mesi, no, per il negoziato. Che cosa porta a dire che fra 2 mesi, certo, lo abbiamo detto in apertura del programma con la vicenda Almaviva, in quel caso perché le lettere di licenziamento sul parte romana partono in queste ore, era meglio a nostro avviso aspettare 3 mesi. Detto questo, per l'Italia, una vicenda molto complicata, che cosa dovrebbe accadere in questi 2 mesi? Ma in questi 2 mesi dovrebbe sostanzialmente accadere che, come dire, l'azienda riesca a definire un piano di rilancio reale che appunto, come giusto, insomma, sia stato, come dire, fatto finora, indichi nel medio lungo raggio, diciamo, la sfida da affrontare. Però è chiaro, come dicevo anche prima, che questo tipo di impegno non si può fare se non ci sono comunque, come dire, gli strumenti che ti consentono di concorrere, insomma, con gli altri giganti dei cieli, che hanno appunto, soprattutto poi sul fronte, diciamo, del farista, hanno risorse, hanno, come dire, un numero di velivoli decisamente superiore rispetto a quello che Alitalia può mettere in campo. Quindi insomma bisogna poi, come dire, scrivere i piani, ma anche garantire. Ha detto che questa volta, per correttezza, il piano è tutto Etihad, nel senso, certo, che non è stato un errore dei manager italiani la scelta, uno può anche condividerla, di puntare sul lungo raggio, di puntare su rotte intercontinentali e di usare Abu Dhabi. Non è una scelta che è venuta ai vertici romani. Qualcuno mi dice, ma costerà ancora qualcosa al contribuente? No, perché l'Italia a questo punto è tutta privata, quindi costerà qualcosa. Problema ce l'avranno casomai Intesa e Unicredit, che sono i 2 principali azionisti dopo Etihad, e che sono anche creditori. Nel ringraziare Celestina Dominelli, leggo il messaggio di un ascoltatore che riguarda ancora il Monte dei Paschi. Dunque, quindi Barisoni, i bancari guadagnano il doppio di un impiegato normale, i banchieri straguadagnano e prestano soldi a chi vogliono, e noi impiegati con stipendi miseri dobbiamo tappare i loro buchi. Bella politica economica di me, leggila se hai coraggio. Guardi, coraggio, l'ho appena letta, ho evitato della parolaccia perché non è il caso. Detto questo, cerchiamo di essere molto chiari, l'abbiamo spiegato molte volte, le banche sono industrie, imprese un po' diverse dalle altre, nel senso che il fallimento di una banca, a meno che non sia una microbanca con 4 sportelli, ha quasi sempre, nel caso del Monte dei Paschi sicuramente, un effetto sistemico, cioè butta giù tutto il settore bancario, e le banche hanno un'industria che si chiama industria del risparmio, per cui non solo buttano giù l'intero settore con un danno sistemico a domino, ma anche distruggono i risparmi dei correntisti. Allora, e con il bail-in sono garantiti solo i conti correnti sotto i 100.000 euro. Allora è ovvio che non la puoi, è brutto dirlo, ma è così, non la tratti come un'altra impresa manifatturiera. Ecco perché molti lamentano: il governo interviene per il Monte dei Paschi, per Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma non interviene per altre vicende, a partire da Almaviva. Allora, il bail-in prevede che in casi di rischio sistemico si possa fare una deroga e possa intervenire lo Stato, l'abbiamo spiegato molte volte, ma è inutile girarci attorno, le banche non sono imprese qualunque, hanno un tale effetto sistemico sulla tenuta del sistema, sul rischio di fuga dei capitali, di ritiro, di chiusura dei conti correnti, che nessun paese, neanche dopo Lehman Brothers, ricordate che perfino la Gran Bretagna è andata di fatto a nazionalizzare Royal Bank of Scotland, ed è un paese bello liberista la Gran Bretagna, perché si ritiene che il danno sarebbe enorme. Pensate cosa è stato fatto con Lehman Brothers quando si è detto facciamo fallire Lehman, che è una banca d'affari più che una banca retail. Che cosa è successo? Detto ciò, è il motivo per cui abbiamo detto, visto che non sei un'impresa come le altre e quindi non puoi essere fatta fallire, è anche, sarebbe anche corretto che gli stipendi, i bonus, abbiamo fatto intere puntate sugli stipendi degli ex manager della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, gli stipendi dovrebbero avere un controllo, perché se poi interviene lo Stato, nella peggiore delle ipotesi, e intervengono i contribuenti, allora io come contribuente devo avere il diritto anche di avere una regolamentazione dei bonus dei manager bancari, che non sono manager come gli altri, perché tanto le loro aziende non possono di fatto fallire. Ok, quindi il fatto che Iorio si sia preso 1,7 per entrare, Zonin 1,7 milioni, Zonin abbia preso 1 milione per uscire, Sorato per uscire 4 milioni, adesso sono indagati sia Zonin che Sorato, che poi Iorio abbia guadagnato 10.000 euro al giorno perché ha preso lo stipendio di 1,5 milioni all'anno, ha preso un altro 1,5 milioni, 1,7 milioni per uscire. Allora, questo è assurdo. Per cui, siccome poi alla fine ti garantisco io come Stato, secondo me lo Stato avrebbe anche il diritto di dire, bene, attenzione, i manager bancari non sono manager come quelli di imprese normali che possono fallire e saltare per aria, perché tanto non saltano mai per aria. E in quello ci vorrebbe un controllo anche sulla politica di remunerazioni, visto che i consigli di amministrazione e chi ha la delega per la politica di remunerazione non hanno mai funzionato in questi casi, lo dimostra la storia di Veneto, Etruria, Popolare di Vicenza, Cassa di Risparmio di Genova e quant'altro. Traffico. Focus Economia. E a proposito di controllo delle remunerazioni, dei bonus, degli stipendi ai banchieri, venerdì scorso avevamo la classifica, la poco invidiabile classifica, l'abbiamo solo accennata. Comunque si è chiusa l'indagine nei confronti degli ex componenti degli ultimi due consigli di amministrazione di Banca Etruria e anche alcuni dirigenti di Banca Etruria. L'inchiesta si è chiusa, l'ha coordinata la Procura di Arezzo. Tra loro ci sono gli ex presidenti Fornasari e Rosi, non Pierluigi Boschi. 22 gli avvisi di chiusura indagine. Tra le ipotesi di bancarotta c'è anche quella che riguarda il cantiere di Civitavecchia. Adesso vi voglio raccontare una storia che avevamo già raccontato, ma ogni volta che la rileggo impazzisco. Doveva essere, dunque, la bancarotta riguarda il cantiere di Civitavecchia, dove doveva essere costruito nove grandi yacht, e poi il resort San Carlo Borromeo in Lombardia, i finanziamenti al cementificio Sacci di Federici, la Isoldi, la società Pegasus cui era legato Rigotti e al quale faceva capo anche la CIB 35, la Evea, la Facing, la città di Sant'Angelo, l'outlet realizzato dalla Castelnuovese di Rosi, insomma un insieme di finanziamenti che poi si sono rivelati in molti casi non più esigibili come crediti, ma del tutto impropri. Vorrei concentrarmi solo su questo cavolo di yacht. Allora, nel 2012 Banca Etruria guida il pool di banche che vanno a erogare 136 milioni, siamo già nel 2012, le sofferenze si sa che ci sono, il 2008 c'è già stato, le banche non navigano in bellissime acque, eppure loro riescono a erogare 136 milioni di finanziamenti al cantiere Privilege Yard, che avrebbe dovuto costruire 9 mega yacht. Il cantiere chiude nel 2015 per insolvenza, non ha mai costruito manco un tender, neanche un gommone. Secondo la procura, senza, tra l'altro, la banca non ha effettuato i controlli per l'erogazione dei crediti. 78 milioni di euro vengono affidati a Mario Lavia sotto processo per bancarotta, che li dirotta su due società offshore per presunti progetti, però una fetta dell'incasso, circa 700 mila euro, vanno a associazioni italiane d'estere su richiesta del cardinale Tarcisio Bertone. La procura indaga poi in particolare su un finanziamento da 100 milioni erogato per la costruzione di uno yacht che poi doveva essere acquistato da Barclays Bank. L'unica garanzia, un impegno della banca all'acquisto una volta completata la costruzione. Frutto di lunghe mediazioni questo accordo, prendono parte a queste mediazioni anche l'ex sottosegretario dell'economia Mario Baldassarri, consulente dell'armatore, e l'ex presidente ad honorem della Privilege Yard, Vincenzo Scotti, DC, ministro degli interni, qualcuno se lo ricorderà. La nave non viene mai completata, lo scheletro marcisce nel cantiere di Civitavecchia e i soldi vanno in fumo. E poi ci sono altri finanziamenti minori, tra virgolette 20 milioni per i cantieri, 6 milioni per l'impianto fotovoltaico, la cui costruzione viene affidata a una società di proprietà dell'allora vicepresidente di Banca Etruria, Natalino Guerrini. Sara Monaci, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, sì, torniamo a parlare di Etruria, poi un accenno lo voglio fare anche a Formigoni ricordando la condanna, ma insomma, ma com'è possibile che, sì, che uno eroghi 136 milioni, di cui 78 milioni affidati alla Via sul nulla? Beh, infatti la questione è proprio questa, è il caso più eclatante che avrebbe contribuito, secondo gli inquirenti, alla bancarotta fraudolenta. Chiaramente, diciamolo, non è solo questa erogazione o le altre che tu hai elencato prima, è che non potendo andare troppo indietro nel tempo, gli inquirenti, anche per evitare prescrizioni o allungamenti anche inefficaci dei tempi d'inchiesta, si sono fermati al 2012, quindi diciamo i casi più eclatanti degli ultimi 4 anni. Ma se si tornasse indietro, chiaramente i fatti aumenterebbero a dismisura, perché chiaramente una banca fatta di grandi relazioni personali, è proprio questo il punto. La grandi intese come ammontare, perché poi esatto. Come giudizio di qualità, piccoli interessi personali, prego. Piccoli interessi personali, la privilegio Yard è un caso particolare, perché questa barca in realtà non si capiva bene. Questo, ma come fa yacht. Uno a finanziare un cantiere e poi girare i soldi a Bertone? Io voglio capire cosa c'entra Bertone. No, la questione è che in realtà i finanziamenti erano dati per questo grande yacht che, premetto, doveva essere fatta da un'azienda, da un gruppo di imprese che, raccontavano ai giornalisti, gli stessi inquirenti ad Arezzo, era anche difficile capire che competenze specifiche avessero settore, non avevano mai fatto cantieristica, peraltro dicevano prende un tutorial su YouTube e si mette a fare cantiere, ma sì, non solo, era anche molto lontana dal mare e quindi dicevano arrivare, e quindi era già chiaro, come dire, occhio nudo, che era molto complicato poi realizzarlo nei fatti. Cosa è accaduto? Che i soldi che poi loro hanno ricevuto, giustamente ricordavi, 140 milioni questo finanziamento da un gruppo di banche di cui Etruria era capofila e che ha contribuito con ben 80 milioni. Allora, di questi, diciamo, una parte, perché loro erano semplicemente interessati alle opere di bene, sono andate in associazioni, tra cui quelle sostenute e sponsorizzate in qualche modo da Bertone. Si parla di 700.000 euro di finanziamenti, magari non cifre, ma semplicemente si fa beneficenza con soldi girati dalla banca e che nessuno è in grado nemmeno di restituire. Quindi certo, diciamo, è uno strano giro. Devo stare zitto su Bertone, già abbiamo parlato del suo megattico. Pure quello abbastanza insaputa. Chiudiamo con Formigoni, nel senso che oggi è stato condannato a 6 anni, accusato di associazione per delinquere e corruzione sulla vicenda della Fondazione Maugeri e San Raffaele. Ricordiamo la vicenda, tra l'altro il tribunale gli ha confiscato, ha disposto la confisca di 6 milioni e 600 mila euro, tra cui la quota del 50% di una villa in Sardegna, e poi devono versare lui, D'Accò e Simone 3 milioni come provvisionale complessiva alla regione Lombardia. Mi sembra tanti soldi da confiscare, 6 milioni e 600 mila. Non l'avevano presi nel tempo, sommando i sequestri di tutte e tre le persone, però sai, se vai già su ville in Sardegna, questa cifra poi si trova, lo stesso Fermigone dipende, ci sono anche le villette a schiera in Sardegna, è una villa che da sola... Che da sola il 50% vale 3 milioni, non è proprio una villetta così. No, non era una villetta a schiera. Ascetica. No, che si confà al celeste. Era qualcosa di più sostanzioso. Ricordiamo nella conclusione la vicenda Maugeri e San Raffaele, per favore. Rapidamente, allora, in questo caso si parla specificatamente della Maugeri. Si parla di distrazione di fondi pubblici, 60 milioni, che secondo gli inquirenti, ora secondo anche il giudice, sono stati dirottati senza averne dei motivi alla clinica Pavese Maugeri. Secondo la ricostruzione, Formigoni, grazie a questi faccendieri D'Accò e Simone, avrebbe fatto delle delibere ad hoc attraverso questa famosa storia delle funzioni non tariffabili, ovvero dei meriti che ogni anno andavano valutati in base alla ricerca o delle capacità volta per volta da valutare. Quando è volta per volta, non è mai chiaro quali sono i criteri, ecco che appunto veniva poi foraggiato. In che modo lui veniva poi pagato non attraverso contanti, perché Formigoni non ha avuto tangenti in soldi contanti, attraverso un sistema di vita che era praticamente pagato nei fatti. Quello famoso per cui favori. Diceva ognuno portava qualcosa, solo che tu portavi le merendine, gli altri mettevano la villa, la barca e tutto, insomma. Non funziona così quando fai la romana, vabbè, ce la ricordiamo quella vicenda. Grazie anche a Sara Monaci. Domani la classifica sarà in versione speciale e quindi vi do appuntamento domani alle 17. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.